Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità e getta uno sguardo sul mondo mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. Lo facciamo nella persuasione che la possibilità di un futuro e la qualità della vita nel presente siano legati alla capacità che avrà la nostra società di superare l'impostazione antropocentrica che abbiamo ereditato dal passato. È la puntata numero 668 e parleremo di ospedali e allevamenti, di pratiche antiche da mettere in archivio e di nuove idee che si affacciano sulla scena. La colonna sonora della puntata è curata da Gianluca Masala. La ricetta della settimana è firmata, come al solito, da Gabriele Palloni. Da un po' di tempo, ogni volta che un'amministrazione pubblica locale entra nelle nostre cronache, tocca registrare qualche brutta notizia. Una volta l'invasione dei cinghiali, un'altra l'assalto dei piccioni, e poi la minaccia dell'orso, l'incubo del lupo, le lontre che distruggono i fiumi, i tassi che fanno più danni di una grande opera inutile. Fa piacere per una volta registrare una notizia vera e positiva, seppure si tratti solo di un annuncio, di una promessa. Ma per quanto appena detto, visto l'abitudine che ci siamo fatti, siamo nella condizione evocata da una scritta murale, notata una volta dallo scrittore uruguaiano Eduardo Galeano e riportata in uno dei suoi libri. «Basta fatti, vogliamo promesse», diceva quella scritta con felice e feroce ironia. La notizia, la promessa, stavolta arriva dal sindaco di Roma, l'ex ministro Roberto Gualtieri, secondo il quale la capitale si doterà presto di un ospedale veterinario pubblico. L'annuncio è stato fatto, come d'uso da qualche tempo, non già in un luogo istituzionale, ma attraverso un testo pubblicato su un social network. Roma, ha scritto il professor Gualtieri, avrà il suo primo ospedale veterinario pubblico. La giunta capitolina ha avviato infatti il percorso che porterà alla completa riqualificazione e all'ampliamento del canile comunale di Muratella e alla realizzazione di una struttura unica in Italia che consentirà l'accesso gratuito ai servizi di cura per gli animali. I primi atti formali sono stati compiuti da parte dell'amministrazione con il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il sindaco ha spiegato che il nuovo servizio occuperà spazi attualmente non utilizzati e che prevederà, fra le altre cose, un pronto soccorso attivo 24 ore e poi una dotazione di strumenti all'avanguardia, laboratori di diagnostica e di analisi, una sala gessi, due sale operatorie, anche un locale per la degenza post-chirurgica e per la terapia intensiva. E poi è previsto di avere un'area da utilizzare in caso di necessità di isolamento per animali con malattie trasmissibili. Questa è dunque la promessa e deve essere accolta con favore, visto che le spese veterinarie fanno ormai parte dei bilanci familiari di milioni di italiani e sono spesso ingenti e oltretutto detraibili solo in parte dalla dichiarazione dei redditi. Vedremo se l'amministrazione Gualtieri riuscirà a mantenere il suo impegno. Intanto abbiamo avuto la nostra promessa, più gentile e più confortante di tanti fatti. Si è appena chiusa COP27, la riunione dei governi chiamati a intervenire sui cambiamenti climatici, per evitare, come ha ammonito il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che ci avviamo verso il suicidio collettivo. Ci riserviamo di fare nella prossima puntata un bilancio di COP27 dal nostro punto di vista, quindi con lo sguardo allargato agli altri animali e anche alle piante che abitano il pianeta insieme con noi umani. Intanto vogliamo rimarcare l'urgenza di prendere alcuni importanti provvedimenti per avviare quelle azioni urgenti evocate da Guterres, ma finora evitate dalla comunità internazionale. Ci riferiamo alla chiusura degli allevamenti intensivi, una misura oggi più ecologista che animalista e antispecista, visto che avrebbe come obiettivo precipuo la riduzione delle emissioni di CO2 e dei consumi di suolo e di acqua, e non il ripudio dello sfruttamento animale. D'altronde va detto che i movimenti ecologisti e antispecisti, superando incomprensioni e divisioni storiche, si trovano oggi impegnati nella stessa lotta per la giustizia climatica, sia pure da punti di vista diversi e tuttavia convergenti. E perciò, in tema di allevamenti intensivi, vogliamo citare un documento diffuso dalla Lega Antivivisezione, LAV, la principale organizzazione animalista del nostro paese. LAV sostiene che anche gli animali sono vittime del processo di progressivo aumento delle temperature che altera gli equilibri del pianeta. In tutte le sue fasi, dice LAV, l'allevamento influisce negativamente sull'ambiente e ha un impatto e costi nascosti di gran lunga maggiori rispetto ad altre produzioni agricole. Anche eliminando le emissioni da combustibili fossili, le emissioni dell'attuale sistema alimentare globale, fortemente sbilanciato verso cibi di origine animale, lascerebbe l'obiettivo di 1,5 gradi centigradi in più rispetto all'era preindustriale fuori portata e renderebbero difficile rimanere al di sotto dei 2 gradi. Le stime, dice ancora LAV, mostrano una domanda di carne in crescita, soprattutto nei paesi di nuovo benessere, tanto da far prevedere un raddoppio entro il 2050. Si tratta di previsioni catastrofiche a livello ambientale e non solo. È perciò tassativo individuare al più presto nuove soluzioni per soddisfare il bisogno proteico mondiale e ridurre la pressione del consumo di carne sul pianeta. Il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, l'IPCC, come tanti altri organismi internazionali, fa notare la LAV, riconosce l'elevato potenziale di mitigazione degli impatti di un cambiamento alimentare con l'incremento dei cibi al 100% vegetali. È necessario che i governi mettano al primo posto la salvaguardia del pianeta e si svincolino da interessi concentrati nelle mani di pochi. La politica deve fare in modo che l'economia basata sullo sfruttamento degli animali non continui ad essere sovvenzionata per distruggere il pianeta, con pesanti conseguenze per tutta la collettività. Non è utopia, ma realtà, conclude la LAV. Ne sono un esempio i Paesi Bassi, il cui governo ha approvato la riduzione del 30% del numero di animali allevati entro il 2035, proprio per affrontare gravi problematiche ambientali legate all'elevata densità zootecnica del paese. Fin qui la LAV. Tutto ciò, come sappiamo, non è al momento oggetto di un serio dibattito politico. Eppure si tratta di un tema cruciale per il nostro futuro, ma anche per il nostro presente, se pensiamo ai cosiddetti eventi estremi che hanno funestato gli ultimi mesi e anni in Europa e nel resto del mondo. Resta forte al momento la disconnessione fra il mondo politico e istituzionale, quello dei decisori politici e il resto della società e la stessa comunità scientifica. Questa disconnessione deve essere superata e i primi progetti, come il superamento degli allevamenti intensivi, devono diventare realtà al più presto, altrimenti la strada sarà segnata, quella indicata dal segretario generale dell'ONU, il suicidio collettivo. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, et jaloux de gens me débat. Ma leçon de moi, ouais, c'est tout fait dans l'arrière des autres. Et j'écris de douleur, des fureurs et des rages, je pleure. Entraîné par la foule qui s'élance, ce n'est qui danse, nous leur faut les farandoles, et Jésus s'emporte au loin. Et j'écris sur ma foi, maudissant la foule qui me vole. Non, qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé. Ah. Può succedere a volte che le nostre argomentazioni suonino troppo ardite o puramente visionarie, ma noi di Restiamo Animali siamo persuasi di muoverci lungo una falsariga etica, sociale, ma anche storica e politica piuttosto solida, d'essere cioè in cammino verso un traguardo che oggi appare lontano, la liberazione animale, ma che ha la capacità di guidare la nostra lettura del mondo e anche le nostre azioni in modo coerente con ciò che avviene attorno a noi. Ci piace perciò condividere con voi, e lo facciamo spesso, le riflessioni che sempre più di frequente appaiono su media mainstream e vanno nella stessa nostra direzione. È il caso da ultimo di un lungo articolo pubblicato dal quotidiano francese Le Monde e tradotto in Italia dal settimanale Internazionale nel numero 1485 sotto il titolo «Perché mangiamo la carne ma non gli animali?». L'autrice Anne Chemin passa in rassegna, in chiave storica, la lunga pratica di giustificazione dell'uccisione di animali attraverso riti e procedure religiose e laiche. Sappiamo, noi umani, e questa è la tesi di Chemin, che uccidere animali per nutrirsi ha in sé qualcosa di ingiusto e abbiamo sempre avvertito il bisogno di trovare giustificazioni e di nascondere questa verità, separando in vari modi il pezzo di carne che ci troviamo nel piatto dalla vita dell'animale ucciso al preciso fine di trasformarlo in quei pezzi di carne. Nella parte finale dell'articolo Anne Chemin parla della società contemporanea, dell'industrializzazione della produzione di carne e dice: «Con l'industrializzazione, che aveva ormai ridotto gli animali da allevamento a materia prima, l'uccisione alimentare, presente nella vita delle famiglie e nei quadri, diventò al tempo stesso invisibile e impensabile. Tutti gli aspetti simbolici che nel passato permettevano di gestire l'uccisione scompaiono», osserva Jean-Pierre Corbeau, professore di sociologia all'Università di Tours. «Oggi, continua, consumiamo la carne in modo passivo e ordinario, ma siamo completamente esclusi dall'allevamento e dalla macellazione, che seguono processi razionalizzati. La carne non ha più storia, anzi ha la triste storia del produttivismo». Lo sconcerto, continua Chemin, o il vero e proprio disagio nato da questo stravolgimento, ha portato molti di noi a diventare sarcofagi. Anche se mangiamo molta più carne animale dei nostri antenati, preferiamo chiudere gli occhi sul modo in cui è prodotta. Vogliamo mangiare la carne, ma non vorremmo uccidere gli animali, sintetizza il sociologo Claude Fischler. Non potendo soddisfare entrambe le esigenze insieme, facciamo in modo di dimenticare, di non pensarci troppo. Questi accurati sistemi per aggirare la questione della morte animale, conclude Anne Chemin il suo articolo, sono oggi amplificati dalla crisi ecologica. Obbligandoci a ridurre il nostro consumo di carne, spingendoci a riflettere sulla nostra relazione con il mondo vivente, la crisi ci obbliga a mettere in discussione la cecità venata di colpevolezza che domina questi primi decenni del nostro secolo. Dobbiamo fare un lavoro di riflessione enorme, tanto è lunga la storia dell'alimentazione animale degli umani. Ma il tempo stringe, il cambiamento climatico non ci lascerà dei secoli per ripensare le nostre idee sulla carne. Well, Lauren say this love is best. Well, leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers, you're a couple, especially when your body's double duplicate, and then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma. overcome in 60 seconds with the strength we have together. But for now, emotional ties, they stay severed. When there's trust to be treated, someone with funk will hear beats. Karma, coma, Jamaica aroma. Karma, coma, Jamaica aroma. Karma, coma, Jamaica aroma. Karma, coma, Jamaica aroma. Pochi lo sanno, ma in Italia esiste una piccola però prospera attività di allevamento di quaglie, allevamento finalizzato ovviamente alla produzione di carne e uova. Solo nel 2021, secondo dati del Ministero della Salute, sono stati macellati 8,5 milioni di animali. Essere Animali, la battagliera, associazione animalista, ha condotto un'investigazione riservata in due allevamenti, uno in Lombardia, l'altro in Veneto, documentando le terribili condizioni di vita di questi animali. La coalizione italiana End the Cage Age ha diffuso un video dell'investigazione e si tratta di immagini, ancora una volta, impressionanti. Gli animali sono allevati all'interno di capannoni, rinchiusi in gabbie prive di qualunque arricchimento ambientale, delle dimensioni di circa un metro di lunghezza per 0,5 metri di larghezza, disposte in serie una a fianco dell'altra e su più piani. In ogni gabbia sono rinchiuse circa 50 quaglie, le quali, una volta raggiunta la maturità sessuale, risultano avere a disposizione ciascuna una superficie di soli 100 cm quadrati, ovvero uno spazio di 10 cm per 10 cm. Angosciante. E questo, d'altra parte, è lo standard degli allevamenti intensivi. È difficile immaginare che gli animali siano trattati bene in luoghi del genere. E poi che cosa significherebbe trattare bene degli animali che sono fatti nascere per essere uccisi in giovane età a fini alimentari? Ancora una volta il vero traguardo di ogni lotta, di ogni iniziativa, è lo stesso: chiudere per sempre gli allevamenti. End the Cage Age si rivolge alle istituzioni pubbliche e dice: non si tratta di piccole aziende familiari. Gli allevamenti di quaglie sono sistemi intensivi dove gli animali vengono rinchiusi in condizioni drammatiche. È vergognoso che in Europa simili metodi di allevamento siano ancora consentiti. Oh. Riprendiamo dal Corriere della Sera del 16 novembre scorso una notizia riguardante i rodei, una pratica statunitense da cowboy. Vi si parla di possibili prossime limitazioni da parte delle amministrazioni pubbliche. La notizia, a dire il vero, è trattata, come spesso avviene in questi casi, con toni nostalgici e pittoreschi, in un articolo, diremmo tecnicamente, di colore. Ma tant'è, la questione animale, la sua serietà, la sua importanza, non ha ancora fatto davvero breccia nel mondo del giornalismo tradizionale. Comunque, nell'articolo di Matteo Persivale, dopo aver citato Hollywood e la permanenza di una tradizione un tantino macista, ereditata dai padri fondatori, si riferisce che il Consiglio Comunale di Los Angeles è intenzionato, se non a proibire tout court, per ora, i rodei, almeno a limitarne fortissimamente il numero, approvando, scrive Persivale, restrizioni e regolamenti che renderebbero illegali varie specialità dello sport che più di ogni altro identifica l'estremo occidente americano, quello degli Urban Cowboy John Travolta e del Dallas Buyers Club di Matthew McConaughey. È, senza esagerazioni, dice il Corriere, uno scontro di civiltà. Da una parte l'America delle città e del benessere degli animali, per la quale il rodeo è il crudele obsoleto rottame di un'era sorpassata, dall'altra la provincia, le campagne, il deserto, nel quale il rodeo è sinonimo di valori tradizionali come coraggio, lavoro, abnegazione, libertà, soprattutto libertà. Con un codice preciso, gli 8 secondi sono il tempo oltre il quale il toro o il cavallo comincia ad avere un calo di adrenalina e lo scontro comincia a favorire fisicamente l'Homo sapiens, e a quel punto ci si ferma. Se i rodei dovessero essere proibiti o fortemente limitati dal divieto di usare speroni, cinghie e pungoli elettrici, i rodei, scrive il Corriere, dovrebbero fare le valigie dalla vecchia estrema frontiera. Los Angeles è un deserto che finisce nell'oceano, uno dei motivi per i quali la luce è così inconfondibile. La luce che non ha bisogno di riflettori e anche per questo ha partorito il cinema di Hollywood più di un secolo fa. Così l'articolo. Ma per il momento lasciamo il Corriere alle sue nostalgiche visioni e speriamo che il Consiglio Comunale di Los Angeles prenda davvero atto, come sembra voler fare, della realtà. Come ogni settimana, anche stavolta abbiamo sfidato il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni a proporre una ricetta rigorosamente non violenta, prendendo spunto da uno dei temi affrontati nella puntata. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, un libro di ricette che consigliamo vivamente. Sentiamo che cosa ha pensato per noi stavolta Gabriele. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Dalla regia mi chiedono una ricetta romana? E chi sono io per non accontentare tale richiesta? E allora vi racconto uno dei pilastri della cucina della capitale, gli gnocchi alla romana. Gli ingredienti per 4 persone sono 1 litro di latte vegetale, 250 g di semolino, 20 g di mandorle, 20 g di lievito alimentare a scaglie, un cucchiaio di pan grattato, mezzo cucchiaino di curcuma in polvere, olio extravergine di oliva, noce moscata, sale. Fate bollire il latte vegetale con mezzo cucchiaio di olio extravergine, la curcuma, il sale e la noce moscata. Aggiungete il semolino a pioggia, mescolando con una frusta a fuoco molto lento. Fate cuocere per circa 10 minuti, quindi togliete dal fuoco e versate in una pirofila precedentemente spennellata con poco olio. Stendete il semolino ad un'altezza di circa 1 cm e lasciate raffreddare. Nel frattempo fate tostare in una padella con un filo di olio il pan grattato e le mandorle. Lasciate intiepidire, quindi macinate in un mixer assieme al lievito a scaglie e un pizzico di sale. Una volta che il semolino si sarà raffreddato, con l'aiuto di un coppapasta o una tazzina, formate dei cerchi di 4-5 cm di diametro che sistemerete nella pirofila nella quale precedentemente avrete passato un bel giro di olio extravergine. Disponete gli gnocchi l'uno accanto all'altro sovrapponendo leggermente i bordi. Condite con un altro giro di olio e spolverate con il mix di pan grattato e mandorle. Gratinate in forno a 180 gradi per circa 15 minuti. Servite gli gnocchi caldi nella pirofila. Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Francesca De Matteis, Roberta Marino, Valentina Reggioli, Valentina Baronti, Camilla Lattanzi, Anna Granata, Zenone Sovilla, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Francesco Panier e chi vi parla, Lorenzo Guadagnocci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.